Volevo vedere questa zagara che gli hanno piazzato sul mento, anche perché così potremo fare causa finalmente a Capri. Bellissimo rivedere tanta gente, tanti amici, sentire questi urli così, è una cosa che personalmente avevo bisogno. Pazzesco, ma come fa un gallo nel recinto delle Orche? Tutti convocati. Di Carlo Genta. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Some nights are special. Alcune notti sono speciali, eh sì signori, come quella del Napoli di ieri sera, ha battuto i vice campioni d'Europa in carica, quel Borussia Dortmund che sembrava inafferrabile, e invece con una grande partita la squadra di Benitez ha vinto e ha portato a casa 3 punti. Zuniga, finta la cross, palla per Insigne, ancora Zuniga. Il cross del colombiano, colpo di testa, rete! Higuain, dopo l'imbottaggio! Parte Insigne, rete! Rete! Un gol pazzesco! Insigne fa impazzire il San Paolo! Alcune notti sono speciali anche perché serve lo stellone o il cul-de-sac, non ve lo ricordate? Quello antico di Arrigo? Ebbene, al Milan serve tutto questo per battere invece, dopo una pessima partita, il Celtic, che certo non è nel Borussia Dortmund, nel Real Madrid, nel Barcellona, è una modestissima squadra, e il Milan ha avuto bisogno di una grande fortuna per battere gli scozzesi, ma anche in questo caso sono 3 punti. Servizio per Balotelli, limite dell'area, accompagna Zapata, c'è largo Zaccardo, finta di Zapata, prova il sinistro, Zapata, il primo gol con il Milan, è un gol importantissimo, va Balotelli, Foster e poi la palla in rete, Muntari per il raddoppio del Milan. Allora cari amici, Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, voi potete intervenire sempre e quando volete su ogni argomento, 800 24 00 24, perché siete sempre tutti convocati. Ragazzi, certe notti sono speciali anche perché, alla faccia dei milioni di miscredenti che sono tra di voi, certe notti sono speciali anche perché c'è qualcuno che azzecca i pronostici, me lo ricordate via sms, so benissimo di aver pronosticato 9 punti per le italiane in Coppa, sono ancora in tempo ad azzeccare il pronostico per il Napoli e per il Milan, io continuo a dire 6 punti questa sera, spero di non sbagliarmi almeno stavolta. Allora come la mettiamo, quanto fa 3 più 3? 6? 800 24 00 24, invece il vostro numero verde, Marco Ansaldo, inviato della stampa e penna illustre, è collegato con noi, ciao Marco. Ciao. Ieri dicevo, tra Frizzi e Lazzi assortiti, che forse erano le altre del girone a doversi preoccupare del Napoli. Non avevo visto male. No. Il Napoli mi sembra una squadra che ha una discreta mentalità europea da questo allenatore, che forse rende più in Europa che non nei campionati. Quindi credo che abbia cambiato alcune cose, ha avuto la capacità di preparare la squadra per la partita con il Borussia Dortmund. Alcune cose gli sono anche andate bene, perché l'espulsione, cioè trovarsi poi in 11 contro 10 non è male, e così via. Però insomma il Napoli ha giocato una buona partita e mi sembra anche una buona squadra. Sì. Una squadra che dirà la sua in campionato e può dire la sua anche in Champions. Del resto, pensa che il Napoli con Mazzarri, che non aveva mai giocato la Champions, comunque arrivò a un passettino piccolissimo dal eliminare il Chelsea, che poi avrebbe vinto la Champions di 2 anni fa. Certo. Quindi qualcosa c'è. E questo Napoli ha molti giocatori che conoscono la strada, che conoscono le strade d'Europa, a cominciare dal matador di ieri sera, che non è più Cavani ma Higuain adesso, il Pipita, era in mano alla Juventus, mi confermerai. Magari ieri sera verso 9:10, 21:10 a qualcuno sono fischiate le orecchie, cosa dici? Ma sai, poi allora quando segna Tevez fischiano le orecchie a qualcun altro. Cioè, certo. questo è sempre molto relativo. Secondo me dovrebbero fischiare le orecchie a chi non ha preso Insigne, perché quello è un tipo di giocatore, parlando di giocatori italiani, che può fare veramente strada, che può fare la differenza. Poi sai, tra gli stranieri, tra Tevez e Higuain, non credo che ci sia una grandissima differenza. E poi sì, comunque, visto come Conte considera le punte, probabilmente gli serve più Tevez che Higuain, magari, non sì, so, non dico che Higuain farebbe la stessa fine di Llorente, perché sarebbe una follia ovviamente, sì, però un po' sì, come tipo di giocatore forse gli serve più Tevez. Marco, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi proseguiamo e parliamo anche del Milan, che ieri ha avuto una grandissima fortuna, e della Juventus, perché oggi ne scrivi anche sulla stampa, l'hai citato ora, c'è questo Llorente, non so quanto, fino a che punto e fino a quando, oggetto misterioso. Tutti convocati. Gennari, con il dovuto rispetto li dobbiamo offuscare a tutti, ma per arrivare a questo dobbiamo fare qualche cosa di grande. Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro, che dici? San Gennaro, ma tu un segno me lo devi fare, eh? Se no io non capisco nemmeno se mi stai a sentire. Oui. Parte Insigne e rete! Rete! Un gol pazzesco! Insigne fa impazzire il San Paolo! Beh, caro Marco Ansaldo, magari le orecchie saranno fischiate anche a chi Insigne lo faceva giocare a rate l'anno scorso. Ma sì, sai, però poi gli anni, ogni situazione è diversa, ogni stagione è diversa. Tra l'altro quello che faceva giocare Insigne a rate l'anno scorso comunque sta ricostruendo l'Inter, che sembra, con gli stessi uomini sembra l'Inter diversa. Cioè, non credo che si possa poi imputare a Mazzarri questa cosa. Insigne è cresciuto, come tutti i ragazzi di 20 anni, ha dei momenti positivi e dei momenti meno. Benitez secondo me è, a differenza di molti allenatori italiani, un allenatore di scuola spagnolo-inglese, dove i giovani non sono un problema ma sono una virtù. Assolutamente. E quindi non ha paura di mandare i giovani in campo, quando sono bravi li usa e li fa crescere, questo sì. Sì. Gli altri sono allenatori del calcio italiano, dove vale la regola per cui meglio l'esperienza che non magari un po' di talento. E quindi Insigne adesso con Benitez, può fare un po' di più, però è anche passato un anno nel frattempo, altra esperienza, altre cose, quindi forse adesso per Benitez è più facile utilizzarlo di quanto non fosse per Mazzarri. Sì, anche se insomma Mazzarri io lo considero un eccellente allenatore, intendiamoci bene, però non, e qui sta un po' una contraddizione, non è esattamente l'allenatore che rischia molto sui giovani, e quindi se si voleva costruire un Inter giovane, poi si chiama Mazzarri. È chiaro che l'Inter è una squadra solida, è una squadra quadrata, ha tante qualità che l'anno scorso non aveva, però non si può chiedere a Mazzarri, insomma, di inaugurare la linea verde. Ma andiamo al Milan invece. Scusami, posso ma certo, una cosettina breve? Ma certamente. Cioè Alvarez e Jonathan, che non sono propriamente dei vecchi ma mi sembrano sì, abbastanza dei giovani, mi sembra che adesso siano dei giocatori enormemente diversi rispetto all'anno scorso. Quindi anche lì, insomma, Mazzarri poi fa con quello che ha. E quando vede dei giovani di cui ha bisogno, poi alla fine rilancia. È che nel Napoli aveva comunque un'alternativa importante a Insigne e magari preferiva in quel caso l'esperienza. Nell'Inter adesso ci sono parecchi giovani che stanno rendendo molto, quindi anche lì è sempre molto relativo. Sì, però vedi che quei giocatori che erano le nuove stelle, che dovevano essere le nuove stelle, Icardi e Belfodil, in fondo il campo fanno fatica a trovarlo, Marco? Anche Kovacic, il campo fa fatica a trovarlo. Sì, io penso poi che dipende anche sempre molto da quando, questi giovani quando vengono utilizzati che cosa dimostrano. Sì. Io credo che poi alla fine, voglio dire, nella Juventus c'è Pogba. Quando è stato buttato in campo ha fatto delle cose tali per cui soltanto un cieco dice vabbè questo qui non lo metto in campo. Ma sicuro. Ecco, se sicuro. Poi tu invece vieni messo in campo e fai bel Fodil, che mi sembra bel Fagor, il fantasma del Louvre, cioè fai qualcosina, allora dice vabbè dov'è il talento, dov'è la qualità, perché devo mettere questo qui? Sui giovani c'è sempre, in qualche modo vedi che anche Prandelli, che è uno che ha sempre parlato di giovani eccetera, adesso sta tirando il freno a mano perché si è accorto che poi alla fine i giovani su cui puntava magari non erano così straordinari come, cioè, come sì, si diceva. Come sembrava. Ecco. Invece Milan, ieri sera gran culo, diciamolo, perché sì, così sì. È. Beh, anche col Toro. Anche col Toro certamente, però guardi la formazione, allora Birsa, non voglio girare il coltello nella piega di nessuno, però è oggettivo, Birsa, Constant, questo Nocerino, questo Zaccardi, io ci infino anche De Jong, insomma questi sono giocatori che non dico 100 anni fa, ma 3 anni fa avrebbero fatto fatica a giocare anche la partitella del giovedì a Busto Arsizio. Sì, beh certo, forse io ti contesto un filo De Jong che non è un fenomeno, insomma. Però gli può servire, ma tutti gli altri hai ragione perfettamente tu, cioè non sono giocatori da Milan, pensando al Milan cos'era. E del resto, se a un certo punto c'è chi decide che i fuori classe si comprano solo sotto elezioni, speriamo che per il Milan che ci siano delle elezioni molto presto, insomma. Ma è arrivato Kakà, scusa, dovrebbe... è arrivato Kakà, no? No, lascia perdere, Kakà è una di queste cose strane che ha il Milan, che per carità fa a noi che siamo un po' nostalgici del calcio del passato, un po' così pane, amore, salame così via, fa anche piacere che ci siano delle società che abbiano dei rapporti di affetto con i giocatori che hanno avuto, però il Milan in questo eccede un po', cioè ha comprato dei giocatori spesso pensa negli anni da Gullit in avanti, ha preso dei cavalli di ritorno che poi non hanno funzionato mai. E secondo me Kakà è un altro cavallo di ritorno che non funzionerà. E se almeno sono abituati a pagare le pensioni, a pagare le pensioni di anzianità, no? Quindi sì, si mettono la mano sul cuore, non costano niente, fanno un gran casino, no? Perché arriva Kakà e fa un gran rumore a lire zero. Esatto. Però è chiaro che lo spot adesso è finito, resta il calcio e Kakà è infortunato. Senti, Marco... non è solo l'infortunio, guarda che io l'ho visto col Torino. Cioè non era Kakà quello lì, ma non è più Kakà, non potrà mai più essere Kakà, no, perché adesso l'infortunio nasconde tante cose, ma il Kakà visto col Torino era un giocatore senza l'accento. Ma certamente, ma mettiamola così, prima era un giocatore mostruoso, numero uno al mondo quando andava in verticale, adesso va in orizzontale e è pur sempre uno bravo a giocare a pallone, ma Kakà era un'altra cosa. Marco, la Juventus, per chiudere, oggi sulla Juventus tu poni un sacco di domande sulla stampa, a partire da Llorente. Ieri con Paolo Condò si è fatto un discorso così, forse un po' duro, un po' immaginifico, però Condò diceva le due mezze punte, le due seconde punte che la Juventus usa drogano un po' il gioco, cioè tornano molto a centrocampo, ti creano superiorità numerica a centrocampo, però giustamente tu oggi fai notare come una variabile tattica sia indispensabile. Possibile che questa non riesca ad essere Llorente? Infatti è il quesito infatti usi punti interrogativi, no? Certamente. La domanda andrebbe fatta, capisco che sei in collegamento con me, ma andrebbe fatta a chi poi deve decidere, perché io sono di questa idea, cioè... Ma poi si arrabbia, quello che deve decidere, si arrabbia se gli dici Llorente, e dice no, ma fammi domande intelligenti. Un allenatore, soprattutto quando è bravo, pensa di non sbagliare mai. E Conte è molto bravo. Da quel punto di vista lì, io credo che quando giochi sui cross, e la partita contro il Copenaghen degli ultimi 3 anni mi sembra in assoluto la partita in cui la Juventus ha giocato in più sul cross tra tutte quelle di cui mi ricordo. Sì. Cioè tu metti uno in mezzo che spizzichi una palla, che faccia un qualcosa, certo, che dia. Secondo me ci sta. Cioè se Llorente non è nelle condizioni di fare qualcosa contro il Copenaghen, allora mi chiedo perché l'abbiano inseguito per un anno e visionato per un anno, perché il problema è questo: un conto è quando tu all'improvviso devi aggiustare, torniamo a Kakà, sei in una condizione di mercato disastrosa, devi fare un colpo che faccia colpo, e dice vabbè, prendo Kakà e poi pazienza. Ma quando tu invece vedi un giocatore per un anno, dovresti sapere vita, morte, miracoli di questo, cioè se ti funziona o se non ti funziona nel gioco dell'allenatore. Se poi arriva e dici no, non mi funziona nel gioco, e allora qualcosa, qualcuno lì ha barato. Sì. Io credo che Kakà, che scusami, Llorente non sia un fenomeno, però in quella partita lì provarlo, perché no? Ma certo, si ma può certo, adattare, ma certo, adattare le cose invece di provare Giovinco. Il discorso del che io un po' contesto a Conte, dal mio piccolo, è che quando lui dice non si può attaccare una difesa di grandi con un gigante, si attacca, vanno in difficoltà con i piccoli. Ma non dica vero questo, perché allora nel basket uno mette una squadra di gente di 1,80 per giocare con quelli di 2,10 m, cosa significa quello? Anzi, puoi mettere uno di 1,90 fisicamente forte, che crei, e probabilmente più bravo dei difensori del Copenaghen, che crei una differenza, che crei una difficoltà, che crei un'alternativa. Ma sicuro. È tutto quello che credo. Poi è anche vero che la Juventus poteva vincere 3-1 o 4-1 senza Llorente se fossero entrati in porta certi palloni. Ieri ho visto il Milan, ha fatto due tiri in porta. Uno e mezzo. E ha fatto due gol. La Juve ne ha fatti 8 e ne ha fatto un gol soltanto. Ci sono anche serate come queste. Però qualcosa andava cambiato. Ma la colpa vera, secondo me, della Juventus è stata l'approccio alla partita, più di Llorente. Sì, sì, ma tu devi cominciare dal primo minuto. Le grandi squadre vanno in campo e queste le partite come le chiudono. Non entrano neanche. Esatto, in campo. esatto. Non proprio non esistono, capisci? Cioè, vanno in campo e dicono oddio, adesso ne prendiamo tre e si accucciano e basta. E ne prendono tre regolari. Invece la Juventus ha sbagliato l'approccio, ma mi sembra che tra le righe anche i giocatori l'abbiano ammesso. Marco, ti ringrazio, ti abbraccio. Okay, ciao, buon ciao. Lavoro. Amami un pochito. No, me dejes nunca. Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti. Ya piti piti no la quiero más. Avete contate 9 volte, lo speaker del San Paolo impazzito, 9 volte Gonzalo Higuaín, 9 volte. Il nostro numero invece è 800240024. Mauro Perugia, buongiorno. Buongiorno, io voglio riferire un attimo anche alla cosa che diceva prima il giornalista. Sì, Marco Ansaldo. Sì, secondo me ieri sera la partita del Napoli ha voluto dire molte cose. La più importante secondo me è che quest'anno il Napoli è secondo me superiore alla Juventus, permetto che sono un tifoso del Milan, anche perché la Juventus secondo me si è indebolita quest'anno, non tanto per aver venduto Matri, ma quanto Giaccherini, perché per Pirlo era il motore. Ecco, dico qua. Ma non ne sono così convinto, Mauro. Mi rifiuto di pensare che la Juventus si sia indebolita perché ha venduto Matri e Giaccherini. Ha preso Tevez, che comunque rimane, secondo me, uno straordinario giocatore. Poi non è forse il giocatore in grado di farti 30 gol. È meno uomo gol, ad esempio, di quanto non sia Higuaín, però rimane comunque uno che conta. Ha preso Bonna, che per la difesa è un eccellente rincalzo. C'è Pogba che è esploso, sta esplodendo. Mi rifiuto di dire che la Juventus sia indebolita perché ha perso Giaccherini. Antonio buongiorno, mi aspetto un attimo perché ho la borsa. Antonio da Como, Gianfranco da Rovigo, subito dopo la pausa. E la fotografia, questa è un po' della partita di una squadra in cui manca il Van Persie di turno, l'Higuaín di turno, cioè l'attaccante da 40 milioni. No, guarda, lascia stare questi discorsi, dai. Fai un'altra domanda più intelligente. tutti convocati. Senza perdere altro tempo, Antonio da Como e Gianfranco da Rovigo. Antonio, buongiorno, rieccoci. Senta, buongiorno. Buongiorno. No, io ho chiamato perché sono un amante anche del football, del calcio. E vorrei che magari tanta confusione non si facesse più sull'aspetto del razzismo. Perché in sostanza il discorso del razzismo, a me non sembra che negli stadi venga vietato l'ingresso a quelli di colore nero. Nelle squadre non possono giocare i giocatori di colore nero. Ma ci mancherebbe altro. Poi non parliamo nella società italiana dove è permesso tutto alla gente di colore di partecipare. Ci mancherebbe altro. Vabbè, e poi io vorrei anche dire un'altra cosa. Sì. Com'è normale che sia? In un paese ma civile, giustamente no? Come si può parlare di razzismo perché quattro deficienti fanno, si sfogano facendo dei boo quando negli stadi è permesso entrare a tutte le persone di qualsiasi colore, nelle squadre non è vietato, perché questo razzismo in America era quando era vietato ai neri di entrare nei bar e tutto quanto quello che era ma infatti, razzista della questione. Sicuramente, ma infatti era inaccettabile, razzismo, no? Quando si parla di razzismo, che sì. È una razza che si superiore all'altra, a me non mi sembra che Balotelli si sente inferiore alla razza bianca. Ma perché e dovrebbe? Permette lui Boateng di andare in giro con macchine costose perché dicono che sono dei professionisti, ci possono permettere. Se sono professionisti, sì, dovrebbero anche accettare questioni fondamentali non l'accetto, ma che discorsi sono? Cioè, vorrei anche vedere non fosse permesso a chiunque di entrare in uno stadio, vorrei anche vedere non fosse permesso a chiunque di giocare a calcio, a basket o di lavorare in banca. Cosa c'entra il colore, cosa c'entrano le macchine costose, cosa c'entrano i soldi, cosa c'entra questo discorso? Cioè, secondo me l'insulto a sfondo razziale è quanto di più bieco, volgare, vigliacco e schifoso possa esistere, e questo lo penso. Poi non mi importa che siano 3, 4, 5, 20, 40, quello che io dico sarebbe il caso, se sono 20 o 8 o 10 o quelli che volete, se è una estrema minoranza, allora li individuiamo e li cacciamo dallo stadio, prendiamo provvedimenti previsti dalla legge del caso. Quello che è molto pericoloso, la deriva pericolosa, è quella di offrire a questi 8, 10, 15, 20, 100, 2000 deficienti un ulteriore strumento di pressione nei confronti dei club. Bah, per il resto rimango abbastanza allibito certe volte. Gianfranco Rovigo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per avermi convocato. Grazie a lei per aver risposto. Chiedo scusa per la tosse, volevo parlare su Raikkonen. Raikkonen, nel senso sì, che il biondino. Sì, a me le messe riscaldate non sono mai piaciute. Però questa è buona, questa è buona di minestra, non è un bollito. No, è un ribollito praticamente, però io la penso così. No, va bene, però è un super pilota, poi al di là di... Io sono un grande estimatore della Ferrari, per cui so che l'ha avuto a bordo e è diventato anche campione del mondo, ma il punto è questo. Velocemente, rubo poco tempo. No, dica pure. Hamilton a 12 anni disse a Ron Dennis: io diventerò campione del mondo con la McLaren. Dopodiché in scuola Ferrari c'era un certo Sergio Perez che adesso che se l'è fregato la McLaren. Noi abbiamo un fior di pilotino che forse pochi conoscono, che si chiama Davide Valsecchi, che ha vinto il campionato della GP2, sì. Va bene? E dove si trova? Alla Lotus sta facendo il terzo pilota, in attesa pilota. di avere una guida, diciamo. Guardi, quello dica pure. Ecco, grazie. E dopo, che cosa abbiamo? L'anno prossimo, con i motori turbo, nessuno ha esperienza, perché ci saranno telai nuovi, camberaggi nuovi, tutto nuovo. Quindi noi abbiamo bisogno sì di un pilota d'esperienza, ma anche di uno giovane da affiancare, da fargli fare esperienza con il vecchio pilota, che in questo caso dovrebbe essere Alonso. Sì. Questa è la mia. Ma il mio pensiero, guardi, non è molto lontano dal suo, nel senso che io non mi sogno neanche di criticare Kimi Raikkonen, che è un pilota che a me piace da impazzire, è tutt'altro che un bollito, è un super pilota, è un top driver assoluto. Tra l'altro oggi ha detto: non capisco e non vedo il motivo per cui non dovrebbe funzionare, siamo tutti abbastanza vecchi per sapere quello che dobbiamo fare, ha detto Raikkonen a proposito del rapporto con Alonso. sono sempre stato, e alla Ferrari aggiunto, sono sempre stato libero. Ci sono diverse storie sul mio passato in diversi team che voi avete raccontato, ma voi non siete mai stati in un team e non sapete davvero cos'è successo. Ci sono diverse mezze verità. Queste le parole di Kimi Raikkonen, ma al di là della cronaca, il mio pensiero non è molto diverso da quello dell'ascoltatore, nel senso che io propendo per una composizione della squadra in cui ci sia un leader riconosciuto, che in questo caso non può che essere Alonso, e un altro pilota che sia giovane, che sia talentuoso, che sia comunque una seconda guida efficace, però che rimanga seconda guida. Cioè io non sono dell'idea dei due galli nel pollaio, questo no, anche se, detto questo, Alonso non è cacà, cioè Alonso, Raikkonen non è cacà e non è neanche Shevchenko quando è tornato al Milan, e non è neanche un ribollito, questo assolutamente no. Prima di Giuseppe dalla provincia di Caserta, 800240024 numero verde, a proposito messaggi 349-238-6666, prima di questo il vero emblema del Milan attuale, il volto del Milan attuale, quindi facciamo sentire lui, perché il simbolo di questo momento rossonero è Walter Birsa. Chi era costui? L'importante è che abbiamo alla fine portato quelli tre punti molto importanti. Sicuramente abbiamo saputo che sarà una partita difficile con tanti infortunati, però come ho detto importanti sono quelli tre punti che hanno portato diciamo avanti di quelle squadre che noi volevamo starci. L'importante è questa vittoria che alla fine è arrivata, anche se è arrivata a ultimi minuti, non cambia il fatto che tutta la partita era durissima. Silenzio, parla Birsa, ma chi era costui? Ma mi pare un giocatore da Milan, con tutto il rispetto. Bravo ragazzo, un bel ragazzo, sa anche mediamente giocare a pallone, ma vi sembra che questo possa essere un giocatore da Milan? Chissà cosa ne pensa il mio amico Pasquale da Chieti, che poi facciamo risentire. Sa come sta oggi Pasquale da Chieti? Tanto Giuseppe dalla provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno, salve. Salve. No, niente di particolare, io veramente non mi aspettavo che meglio si chiama. Comunque, ho seguito dall'inizio la trasmissione, comunque, vabbè, posso parlare così, liberamente, gli argomenti così. Certo. Non ho seguito, non stavo vicino a Radio, quindi... Non ho capito. Ma boh, non so se sente molto. Dica. Pronto. Pronto. Niente, no, volevo dire... aspetta un attimo. Sì, aspetta. Mi sente meglio. No, volevo... diciamo parlare bene, visto che si parlava di motori, di Marquez, il pilota spagnolo, sì. Che è veramente un campione con me. È fortissimo, mi piace come corre, cioè, questo volevo dire. Anche a me, e da poi morire. E poi un saluto a Lavezzi che gioca col Paris Saint Germain, visto che siamo sono tifosi del Napoli, ecco qua. Però quindi Lavezzi non l'abbiamo scordato, ma giustamente, no. Perché è comunque un pezzo di storia recente. A proposito del Paris Saint Germain, grazie Giuseppe, del Paris Saint Germain, sapete che Ibra sta per firmare il rinnovino? Ma cosa succede? Niente, ne prenderà 15 netti all'anno, 18 Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, con ovviamente avvalendosi degli inestimabili servigi del suo procuratore, mio idolo assoluto Mino Raiola, ebbene ne beccherà 15, mica pochi. Chissà come sta oggi Pasquale, che ieri ho sentito un po' su di giri. Pasquale, dove sei? Mi sono incazzato, io ho 60 anni che tipo questo Milan e sono venuto sopra l'11esimo scudetto, il 15esimo, da tutte le parti. Questi non sanno più che cos'è il calcio, non lo sanno più, non lo sanno più, scusate, ma oddio, grazie, guarda, ma avete fatto sfogare. No, sentito, però questo che adesso deve andare a casa, questo non è un allenatore per il Milan. Allora, avrei voluto ieri sera, guardando Milan, ho pensato a Pasquale, che è intervenuto ieri naturalmente, che convochiamo sempre, perché ieri guardando giocare il Milan, all'inizio del secondo tempo soprattutto, è stata una cosa da paura per il Milan. Io ho pensato a Pasquale, ho detto chissà Pasquale cosa sta facendo in questo momento, secondo me lo portano al manicomio. 800240024, e per completare la risposta all'ascoltatore di prima, beh, Marquez non lo stiamo scoprendo, ma ormai abbiamo capito che è la più grande stella che c'è oggi nel moto mondiale. Però a questo proposito vi do un appuntamento la settimana prossima, perché sarà con noi, in un giorno che preciserò, sarà con noi l'attuale campione del mondo Jorge Lorenzo, qui a questi microfoni. vi racconterò tutto, avremo tempo per prendere gli appuntamenti del caso. Tutti convocati. Per avere una chance con loro, prima di fare qualsiasi tipo di discorso sugli stili di gioco, sui roster, su queste cose qua, è non concedere troppi, cioè togliere il più possibile dalla partita, dalla loro partita, quelli che sono i cosiddetti punti facili, perché loro sono maestri nel correre in 5, in contropiede, hanno atleti, anche i lunghi corrono e poi sono usati con grande distribuzione di energia e i rimbalzi d'attacco. E speriamo tutti naturalmente che questa canzone possa valere anche stasera, ore 21, giochiamo con l'Italia del Basket, questo era naturalmente Simone Pianigiani, il nostro CT, il nostro coach. Giochiamo il quarto di finale europeo contro i giganti della Lituania. Luca Chiabotti, inviato alla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Prima una domanda su quanto è successo ieri negli altri due quarti di finale. Allora, la Francia ha battuto la Slovenia, padrona di casa dei 10. La Spagna ha sotterrato la Serbia, più 30. Mi è venuto il sospetto che, sai che sono abituato a pensare male, che la Spagna l'abbia rifatto, come l'anno scorso alle Olimpiadi, quando perse apposta contro il Brasile per evitare gli Stati Uniti in semifinale. Ebbene, mi viene sospetto che contro di noi si sia scelta l'avversaria, cioè la Serbia. Boh, sai, pensare male... Sappiamo, no? Magari, sì, sappiamo. In quel caso però mi sembra un po' strano, perché aveva tutto, era avanti di 15 punti, cioè era andata sotto e poi è tornata avanti di 15 punti. Se uno vuole arrangiarsi un po' la cosa, non, insomma, non recuperava, faceva prima. Ecco, l'unica, io credo che ci sia stato un così proprio un calo di interesse per la partita con l'Italia, più che volerla perdere a posto, scendere in avversario, dovuto al fatto che si erano praticamente tolti il peso della qualificazione con la partita precedente e a quel punto loro si ritengono talmente forti di poter battere chiunque se lo vogliono. Ieri l'hanno dimostrato, anche se la Serbia, secondo me, che è una squadra abbastanza giovane di ragazzi, ieri se l'è letteralmente fatta addosso. Sì, quindi vabbè, il risultato forse un po' più pesante di quello. Ciò non toglie che meglio probabilmente per la Spagna, meglio affrontare la Serbia della Lituania, questo è sicuro. Mi domando se non sarebbe stato meglio anche per noi, però è inutile fare questi discorsi. Sono giorni invece piuttosto che parliamo di questo clamoroso gap fisico che ci separa dalla Lituania, che affronteremo stasera. Tu oggi giustamente sulla Gazzetta scrivi: è comunque sia una grande occasione per l'Italia del basket, perché si tratta anche di vincere ancora una partita e arrivare ai mondiali dell'anno prossimo in Spagna, e lì ci misureremo con i migliori. Stasera loro ci metteranno le mani addosso, i lituani, però dovranno prenderci. Noi siamo più piccoli, dovremo correre. Esatto, non sarà facile perché loro sono molto dinamici, però sai, questa storia della stazza, che noi siamo piccoli e siamo più piccoli della Grecia, siamo più piccoli della Turchia, siamo più piccoli di tante squadre, ce la siamo giocate, o abbiamo vinto o anche con la Slovenia e con la Croazia abbiamo avuto dei palloni per vincerla, quindi tutto sommato vuol dire che questa cosa dell'essere piccoli ci dà dei problemi, ma siamo stati in grado di risolverli. È chiaro che è un po' più difficile perché devi far più canestro, ma non è proprio questa cosa impossibile, anche perché insomma i lituani sono forti, però hanno 5 giocatori sopra i 2,10 metri, Kleiza, che sembra l'armadio dove puoi riporre d'atome per il fisico che ha, però in tutti gli altri ruoli, e comunque si gioca in 5, noi siamo superiori fisicamente e sono anche più bravi secondo me, quindi è tutto come riusciamo a girare la partita, fermo restando che mi viene un po' da ridere pensare cosa dicevamo anche solo 25 giorni fa, quando in preparazione la Lituania non ci ha fatto neanche toccare la palla, è quello che diciamo adesso, che siamo tutti baldanzosi, e io stasera francamente se perdiamo un po' male ci rimango, ecco. Ah, come no, non solo tu, guarda che tu sai quanta gente si è un po' ammalata, meravigliosamente ammalata di basket in questi giorni. Ah già, ci sono anche quelli dei canestri, ma guarda un po' che bravi che sono. Eh sì, guarda un po' che bravi che sono. Stasera ci giochiamo questa partita, come tu sottolinei, importantissima anche per i nostri destini e per quello che sarà il futuro. Perché io credo, se ne parlava l'altro giorno con Franco Arturi, che comunque questa nazionale il suo europeo l'abbia vinto. Adesso può sembrare una frase fatta, però quanto ha fatto fin qui è stato straordinario, e questo non ce lo toglie nessuno. Assolutamente, assolutamente. Noi siamo partiti, abbiamo avuto il coraggio, tra virgolette, alla prima partita con la Russia, dove tutti ci davano per spacciati, non per l'avversario, ma per quello che avevamo fatto fino a quel momento, di girare, approfittare delle debolezze russe, che poi si sono manifestate enormemente, ma nessuno a quel momento lo sapeva. Bastava un minimo di tentennamento lì e ci saremmo giocati il campionato. Siamo stati bravi, siamo arrivati fino a qua, che era il nostro obiettivo. Adesso ci vuole uno sforzino, che non sarà facile, perché stanno cominciando a restare fuori dalle prime quattro delle squadre che fanno comunque abbastanza impressione, per cui bravissimi, però c'è ancora uno sforzino da fare, e come dicevamo prima, un po' la bocca ce la siamo fatta, perché poi tutti questi campioni intorno ci sono, perché c'è Tony Parker, c'è Gasol, ci sono, però ci giochiamo, insomma. Come disse una volta Meneghin prima di affrontare l'Unione Sovietica, ragazzi hanno due braccia e due gambe come noi, vale anche stasera. Assolutamente, le hanno un po' più lunghe, Le hanno un po' più lunghe, e la partita credo, Luca, andrà letta. Secondo me all'intervallo la voce che andrò a guardare con più curiosità sarà quella dei rimbalzi, la casellina dei rimbalzi. Se siamo in linea di galleggiamento lì, poi guardiamo sopra, guardiamo il risultato e vediamo che siamo in partita. Secondo me è così. Sì, anche guardiamo, diamo un'occhiata anche al nostro tiri da tre. Sì, perché chiaramente loro tenteranno di chiuderci completamente l'area, e a quel punto dovremo essere bravi a farci correre dietro, appunto, da lontano. Però il rimbalzo dato chiave. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie Luca Chiabotti, Ferruccio, provincia di Treviso, buongiorno. Ferruccio dalla provincia di Treviso non c'è. Percentuale contro la Lituania 40%, domanda Nicola via SMS, ma dai, ma facciamo 50, giochiamocela, facciamo gli ottimisti, 50% in questa sfida, regaliamoci il 50% delle chance di vincere questa partita. È chiaro che la Lituania fa paura, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista del talento che può buttare in campo. A volte citava Linas Kleiza, che è un giocatore per me mostruoso, al di là della stazza fisica. Poi gli altri li conosciamo, no? Lavrinovic, i fratelli Lavrinovic, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sono giocatori noti che non andiamo a scoprire stasera, e sono giocatori fortissimi. Rocco, Genova, buongiorno. Salve, complimenti per la trasmissione. La chiamo. Grazie. Sono un vecchio tifoso milanista, essendo ieri Pasquale, mi veniva da ridere. Grande Pasquale. Ma si immagina cosa faceva ieri sera Pasquale sul 0-0 inizio secondo tempo? No, il discorso si immagina io con Pasquale, ma tutti i tifosi milanisti, pensando, se hanno sentito la vostra trasmissione, pensavano a Pasquale. Certo, perché vedere giocare quei giocatori. Guardi, sono tifoso dal 59, pensa un po' lei. Ne ho visti di tutti i colori, ma attualmente, cioè, pensavo, vedendoli giocare, pensavo che domenica dovevamo giocare con il Napoli. Non è un bel pensiero, Chissà Pasquale domenica, quindi, chissà, non lo vedo benissimo. Bisogna armarsi di coraggio. No, ma questo Milan onestamente ha un sacco di infortunati. La squadra che ha giocato ieri sera ad alto livello è onestamente improponibile, non si può dire altro. Dal punto di vista dell'organico, questo Milan è improponibile ad alto livello. Ma io più che, cioè, a parte che è improponibile, ecco, perché noi vecchi tifosi, il discorso che non riesco, personalmente non riesco ancora a capire, come mai con questo con Allegri tanti infortunati tutti gli anni. Sì, ne parliamo magari domani, perché adesso dobbiamo chiudere. Tanti infortunati ce li hanno comunque tanti o quasi tutti. Non credo che Allegri poi sia così determinante in questo discorso. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani alle 2. Ciao.